Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono sempre a Torino alla ricerca delle antiche dimore sabaude. Adesso voglio salire con voi alla Villa della Regina, che oggi si trova nel centro della città, al di là del Po, poco dietro la Gran Madre. Era una villa, allora in piena campagna, che venne costruita per un cardinale di Casa Savoia, Maurizio di Savoia, che era abituato, stando a Roma, a vedere le ville dei Farnese, la Villa Borghese, tutte queste grandi ville al fuori dalla città, e se ne volle fare una, tra l'altro una villa agricola, perché in realtà era una grande vigna che stava attorno alla casa, sfruttando il terreno che offriva la possibilità di un grande teatro di verdura. Il cardinale poi ebbe un dissidio molto grosso con sua cognata, perché era morto suo fratello e quindi la cognata divenne la reggente del ducato. Il cardinale non era d'accordo e si combatterono. Alla fine si misero d'accordo e il cardinale prese una decisione abbastanza singolare: abbandonò l'abito cardinalizio e si sposò sua nipote. Lui aveva 49 anni, la ragazza 13, e decisero di andare a vivere proprio nella villa del cardinale. Poi questa villa passò in eredità alle regine di Savoia e oggi si chiama la Villa della Regina. Perché dobbiamo andarla a visitare? Perché si sono conservati ancora, per esempio, i giochi d'acqua. Essendo il terreno molto scosceso, da un padiglione che si trova in alto dietro la villa scendono a varie fontane con varie cascate e appunto dei giochi d'acqua particolarmente suggestivi. E poi oggi è stato possibile ripiantare in parte il vigneto, per cui proprio nella città di Torino, praticamente in centro, si produce dell'ottimo Freisa, perché nel 2009 si è potuto fare la prima vendemmia. La villa è stata per tanto tempo luogo di delizie, proprio perché non si cacciava, non si facevano crociere sul Po come per altre dimore sabaude, si stava lì a discutere con gli intellettuali delle cose più belle e più interessanti che la vita poteva riservare, soprattutto ai nobili di quel lignaggio.